giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Giornata terribile sul fronte degli incidenti sul lavoro nel Pordenonese. Un 27enne morto precipitando da 16 metri in un'azienda a Maniago. Un 22enne di Sacile è rimasto schiacciato da un macchinario e lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Udine. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il pacchetto sanità che prevede tra l'altro più fondi per gli straordinari dei medici in pronto soccorso e limiti ai camici bianchi a gettone. La soddisfazione dei sindacati. Pierluigi Zamò è stato eletto alla presidenza di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Succede al reggente Gianpietro Benedetti, che a sua volta era subentrato a Giuseppe Bono. Penultimo giorno di campagna elettorale con altre visite di big in regione. Sono 1.109.000 gli aventi diritto al voto per le regionali di domenica e lunedì prossimi. Un corpo di votanti di circa 2.000 unità più ampio rispetto a 5 anni fa. L'approvazione del Consiglio dei Ministri del disegno di legge per la messa al bando dei cibi sintetici in Italia riceve il plauso della Coldiretti Friuli Venezia Giulia, dove in 10.000 avevano firmato un appello in tal senso. Si chiamano Blues i primi treni ibridi di Trenitalia che entreranno in funzione a breve in regione con benefici per l'ambiente ma anche per le persone a mobilità ridotta. 79 anni fa i nazisti deportarono dagli ospedali di Trieste tutti i pazienti ebrei, un centinaio di persone di età compresa tra i pochi giorni di vita e i 90 anni, strappate al ricovero che credevano protetto. L'iniziativa della comunità ebraica per ricordare il tradimento del patto etico della cura. Un team di astronomi guidato da un ricercatore dell'Università di Trieste ha osservato per la prima volta le fasi iniziali di formazione di un ammasso di galassie. Si chiama Spider Web ed è destinato a diventare una delle più grandi strutture dell'universo. Pallanuoto Serie 1 maschile, Trieste battuta, la Bianchi, il Telimar passa 8-9 e ipoteca il quarto posto. Buongiorno da Maria Spezzi e Francesca Vigori. In apertura uno sguardo al tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Le temperature a Trieste 11 gradi, a Udine 10, a Pordenone Gorizia 9 gradi, a Tarvisio 6 gradi, a Tolmezzo 2, a Forni di Sopra 1 grado, a Piancavallo e a Sappada meno 1. Sul Monte Russari meno 5 decimi di grado, sullo Zoncolan meno 1,5, a Grado 11 gradi, a Lignano 9. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: su tutte le zone cielo da variabile a nuvoloso con probabile maggiore nuvolosità verso le Prealpi Giulie e in genere al pomeriggio, quando saranno possibili deboli piogge sparse, specie ad est. Soffrirà vento da sud-ovest moderato in quota e vento da sud moderato anche sulla costa. Possibile qualche debole nevicata oltre 1.600-1.800 metri di quota circa. Due gravissimi incidenti sul lavoro si sono verificati ieri nel Pordenonese, a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. A Maniago un operaio di 27 anni è morto cadendo dal capannone dove stava installando pannelli fotovoltaici. A Fontana Fredda un 22enne è stato colpito da una pedana metallica e ora è ricoverato a Udine in prognosi riservata. Stava installando dei pannelli fotovoltaici su un capannone industriale quando una parte del tetto ha ceduto e lui è precipitato da un'altezza di 16 metri. È morto così un operaio 27enne, cittadino italiano di origini marocchine, residente nel Milanese. Lavorava per una ditta di Bergamo incaricata di allestire l'impianto fotovoltaico alla Bioman, azienda di Maniago che si occupa del trattamento della porzione umida dei rifiuti. Ieri pomeriggio il giovane si trovava sul capannone quando è venuta giù una porzione della copertura dove era stata appena posizionata la base su cui sarebbero stati alloggiati gli impianti. Un'area adibita a cantiere dove non c'era produzione in corso, tanto che l'attività della Bioman è proseguita regolarmente. L'area è stata sequestrata e i carabinieri ora indagano insieme agli ispettori dell'azienda sanitaria. I vertici dell'azienda friulana hanno espresso profondo cordoglio per l'accaduto. E sempre nel Pordenonese, a Fontana Fredda, si è verificato il secondo grave incidente sul lavoro. Vittima un 22enne di Vittorio Veneto, residente a Sacile. Era al lavoro alla Terex, azienda specializzata nella costruzione di gru. Il giovanissimo operaio è stato colpito da una pesante pedana metallica. È stato trasportato in elicottero dal 118 all'ospedale di Udine in condizioni gravissime. Ora è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Anche in questo caso i carabinieri indagano sull'accaduto per accertare dinamica dell'incidente e responsabilità. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Le novità in ambito sanitario introdotte dal Consiglio dei Ministri, tra cui i limiti all'ingaggio dei gettonisti, i medici presi in appalto dalle aziende, come rincalzi in organici sguarniti e gli incentivi economici per il personale del pronto soccorso, provvedimenti che soddisfano i sindacati. Scoraggiare la fuga dei medici dai servizi di emergenza e limitare l'utilizzo di prestazioni cosiddette a gettone è lo spirito dei nuovi provvedimenti varati dal Consiglio dei Ministri in tema di sanità. Nel dettaglio sono in arrivo incentivi a medici e infermieri dei pronto soccorso già da giugno. Si limitano le prestazioni mediche o infermieristiche erogate da singoli o cooperative esterne. Possono riguardare infatti solo i servizi di emergenza e per un massimo di 12 mesi senza proroghe. Medici e infermieri che lasciano il servizio sanitario pubblico per il privato ora non potranno più tornare sui loro passi. Le aziende sanitarie potranno aumentare da 60 a 100 euro lordi il pagamento delle ore straordinarie dei medici e il personale sanitario che ha i requisiti per la pensione anticipata potrà chiedere e ottenere di continuare a lavorare con orario ridotto. Gli infermieri che vogliono lavorare dopo l'orario di lavoro fuori dal servizio sanitario pubblico ora lo potranno fare. Infine, sono previste pene più severe per chi aggredisce un sanitario in servizio. Soddisfatti i principali sindacati di medici e infermieri, Nursing e UIL si soffermano in particolare sull'eliminazione del vincolo di esclusività degli infermieri che, scrivono, creerà maggiori opportunità professionali. Alberto Peratoner di Aroi EMAC apprezza il freno all'utilizzo delle cooperative libero-professionali e gli incentivi per chi lavora all'interno, come il collega di Anao Assomed Massimiliano Tosto, secondo il quale i passi successivi devono essere la depenalizzazione dell'atto medico e la defiscalizzazione del trattamento accessorio, cioè della parte variabile della busta paga. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. La Federazione Regionale di Confindustria ha un nuovo presidente, Pierluigi Zamò, attuale vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico. Zamò succede al reggente Gianpietro Benedetti e resterà in carica per 4 anni. È il presidente di Ilcam, società leader europea nella produzione di antine per mobili. Il neopresidente ha rivolto un pensiero a Giuseppe Bono, uno dei suoi predecessori. È stato uno dei principali attori del cambiamento in questa regione, ha detto, strenuo sostenitore della centralità dell'industria e ha tra l'altro contribuito al disegno di costruzione della Confindustria del Nord-Est. Confindustria Friuli Venezia Giulia è costituita dalle 2 associazioni di territorio della regione, Alto Adriatico e Udine, per un totale di oltre 2.000 imprese e da ANCE regionale. Passiamo alle elezioni del 2 e 3 aprile. Nel servizio un'analisi della platea di elettori con qualche curiosità demografica. Sono 1.109.000 gli aventi diritto al voto per le regionali di domenica e lunedì prossimo, 2 e 3 aprile, secondo i dati dell'Ufficio Elettorale Regionale appena pubblicati. Un corpo di votanti di circa 2.000 unità più ampio rispetto a 5 anni fa, nonostante il calo demografico e la relativa contrazione del numero dei residenti, ormai stabilmente sotto quota 1.200.000. Sempre per fattori demografici sono chiamate ai seggi più donne che uomini. 570.000 le femmine, 539.000 i maschi in 1.360 sezioni totali, 9 in meno del 2018. Il diritto di voto si estende agli iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che abbiano come riferimento un comune del Friuli Venezia Giulia. Sono 173.000 i corregionali in questa condizione, si tratta del 15,6% degli elettori totali, elemento da tenere in considerazione quando si ragiona di astensionismo perché costoro rientrano a tutti gli effetti nel conteggio dell'affluenza. Il voto per corrispondenza non è contemplato in questo caso, i residenti all'estero devono tornare fisicamente per poter esercitare il diritto di voto. Per favorire la partecipazione di chi vive o si trova temporaneamente fuori regione, ci sono sconti fino al 70% del biglietto del treno. L'esenzione del pedaggio autostradale è invece prevista solo per chi è residente all'estero. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Visita elettorale in regione oggi per Elly Schlein. La segretaria del PD sarà alle 18 a Trieste in piazza della Borsa assieme al candidato alla presidenza del centro-sinistra Massimo Morettuzzo che chiude la campagna elettorale del patto per l'autonomia. Alle 20 appuntamento pubblico a Udine al Palamostre a sostegno anche della corsa a sindaco di Alberto Felice De Toni. A sostegno di Massimiliano Fedriga torna in Friuli il leader leghista Matteo Salvini. Assieme a lui sei presidenti di regione espressi dal Carroccio, a cominciare dal Veneto Luca Zai e dal Lombardo Attilio Fontana. L'evento pubblico inizierà alle 18.30 in Sala Jacia a Udine. Il terzo polo con Alessandro Maran schiera invece Matteo Richetti, Ettore Rosato e Isabella De Monte alle 11 al Caffè San Marco di Trieste e alle 18.30 al Palace Hotel di Gorizia. Il leader nazionale di Italexit, Gianluigi Paragone, sarà a sostegno di Giorgia Tripoli di Insieme Liberi a Trieste per una serie di incontri informali con gli elettori che comincia alle 12. Ultimo appuntamento ieri con le conferenze stampa RAI riservate ai candidati alla presidenza della regione. È stato nostro ospite il candidato del centro-sinistra, Massimo Morettuzzo. La sanità pubblica è uguale per tutti come valore non negoziabile. La necessità di cambiare i paradigmi di sviluppo per far fronte ad una crisi climatica che è nei fatti. Una visione del problema sicurezza che parte da un senso di comunità che va ritrovato. Sono i punti chiave del programma di Massimo Morettuzzo, il candidato del centrosinistra alla presidenza della regione, che emergono dalla conferenza stampa davanti alle telecamere della RAI. In campo sanitario il sintomo più serio è la fuga degli addetti ai lavori. Sono stati in poco più di 2 anni oltre 1.300 dimissioni volontarie al netto dei pensionamenti di donne e uomini che lavoravano dentro le nostre strutture e che sono andati a lavorare nelle strutture private. Sicuramente c'è un tema economico rispetto a questa situazione, penso agli straordinari non pagati, alle situazioni anche dei contratti, ma c'è un tema di disorganizzazione del servizio sanitario regionale che oggi non è più tollerabile. Per Morettuzzo, economia e ambiente sono due temi che devono camminare assieme. Dobbiamo immediatamente cambiare politiche industriali, agricole, turistiche, perché dobbiamo essere consapevoli della necessità davvero di un piano di adattamento a questa situazione. E anche sulla sicurezza occorre pensare ad una strategia complessiva sul territorio. Serve razionalità, serve evidentemente collaborazione anche con le forze di polizia statali per gestire bene alcuni processi, ma ripeto, il primo modo per affrontare il tema della sicurezza complessivamente inteso è quello di rinnovare un senso di comunità, no? Riabitare gli spazi, i luoghi, rilanciare e sostenere le forme di rete di protezione sociale che sono un elemento di coesione fondamentale per il nostro territorio. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Le trasmissioni elettorali della RAI in vista del voto di domenica e lunedì proseguono oggi con l'ultima serie di messaggi autogestiti dei soggetti politici candidati alla regione. Orario di trasmissione quello ormai consueto, le 13.15 su Rai 3 e le 17.05 su Radio 1. Le trasmissioni si possono rivedere in una sezione dedicata del sito rainews.it/tgr/fvg. Torniamo alle misure approvate dal Consiglio dei Ministri, in particolare al disegno di legge per la messa al bando dei cibi sintetici, un successo per Coldiretti regionale. Una vittoria di Coldiretti, lo stop al cibo sintetico. È stato più di 500.000 di italiani, più di 10.000 in Friuli Venezia Giulia, a firmare un appello in tal senso. Una raccolta capillare tra mercati di campagna amica, banchetti e amministrazioni locali. Si è inteso così salvare il Made in Italy a tavola dall'attacco delle multinazionali del cibo. Il direttore regionale di Coldiretti, Cesare Magalini. Abbiamo raggiunto dei traguardi importanti per mettere in sicurezza il Made in Italy. Siamo di fronte a dei numeri del nostro paese, direi, eccezionali. Il Made in Italy è conosciuto ed è c'è richiesto in tutto il mondo. Credo che da qui parte una grande battaglia a difesa del nostro territorio, del nostro paese, ma anche, diciamo, noi siamo convinti, come Coldiretti e con Filiera Italia, che dialogando in maniera intersettoriale riusciremo a riportare nel nostro paese tutto quell'Italian Sounding che ogni anno vale 60 miliardi. La verità, rimarca Coldiretti, è che non si tratta di carne, ma di un prodotto sintetico e ingegnerizzato che non salva l'ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute perché non c'è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e, inoltre, non è accessibile a tutti, poiché è nelle mani di grandi multinazionali. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato presentato alla stazione di Trieste il treno Blues, il nuovo modello ibrido a tripla alimentazione. Si chiama Blues ed è il primo treno ibrido di Trenitalia con tre modalità di alimentazione, elettrica, diesel e a batterie. Proprio la batteria permette di ridurre l'inquinamento all'arrivo in stazione anche sui binari non elettrificati sui quali entreranno in servizio. Saranno 11 totale e dopo il periodo di preesercizio entreranno in funzione sull'intera rete regionale. Le prime tratte saranno Trieste-Sacile e Udine-Cervignano-Trieste, poi la Casarsa-Portogruaro e la linea Pedemontana. Ai nuovi 11 Blues si aggiungeranno 14 treni ROC che abbasseranno l'età media della flotta regionale. Sabrina De Filippis, direttore business regionale Trenitalia. Si tratta di ben 270 milioni di investimento che cambierà proprio il volto della mobilità nel Friuli Venezia Giulia. Questi treni abbasseranno l'età media di tutto il parco del regionale di Trenitalia del Friuli Venezia Giulia 7-9 anni, quindi è veramente un risultato importante. Dei 270 milioni di investimento, 137 sono a carico di Trenitalia, mentre 133 sono risorse statali assegnate alla regione. Benefici ambientali ma anche un'esperienza di viaggio diversa. Il Blues mette a disposizione 300 posti a sedere, 12 posti per le bici ed è completamente accessibile per le persone a ridotta mobilità. È dotato di un sistema di videosorveglianza, monitor LCD in grado di fornire informazioni in tempo reale ai viaggiatori e un sistema di climatizzazione che viene regolato in modo automatico sulla base del numero delle persone presenti a bordo. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il caro bollette, il caro vita, i bonus edilizi, la diffusione di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori utenti saranno il focus del 7° congresso di Federconsumatori FVG da questa mattina a Trieste. Nella tavola rotonda intitolata Aspettando la pioggia, a cui interverrà il presidente nazionale Michele Carrus, si discuterà di gestione, costi e tariffe del servizio idrico in regione. L'appuntamento è a Trieste, alla sala Xenia della comunità greco-orientale in riva 3 novembre alle 9. Il 28 marzo del 1944 gli ebrei ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Trieste furono deportati dai nazisti. In quelle settimane retate furono eseguite in tutti gli ospedali triestini. La cura tradita è il titolo dell'iniziativa della comunità ebraica di Trieste che si terrà al museo di Via del Monte alle 18 e si potrà seguire anche da remoto per ricordare in modo tangibile e documentato quei terribili eventi. Una raccolta a fondi consentirà di finanziare una borsa di ricerca alla luce della quale sarà possibile realizzare una targa da porre all'ingresso del comprensorio di San Giovanni. Annalisa Di Fante, storica del Museo Ebraico, ci racconta cosa si sa di quelle deportazioni. È veramente tragico lo scenario che si ricostruisce cercando di conoscere meglio quello che è capitato in quei mesi, perché nell'arco di pochi giorni, in particolare proprio intorno al 28 marzo, vennero fatte le retate allo psichiatrico, all'ospedale dei cronici, all'ospedale maggiore, all'ospedale di Santa Maria Maddalena e anche praticamente all'ospedale infantile Burlo Garofalo. E due mesi prima era stato razziato anche l'ospizio ibrico Gentilomo. Oltre un centinaio di persone ricoverate a vario titolo, da pochi giorni di età, quasi 90 anni, vennero arrestate e deportate, nessuno sopravvisse. Esatto, abbiamo la conoscenza di un caso, in particolare a Burlo Garofalo era ricoverata una mamma da pochi giorni col suo neonato e sono stati portati via. Per quanto riguarda l'ospedale psichiatrico, il dottor Lorenzo Toresini, che parteciperà alla conferenza, ha analizzato le cartelle cliniche dei pazienti deportati dall'OPP. Cosa riportavano queste cartelle? Le cartelle sono una fotografia di quella che era la condizione delle persone poi deportate. C'erano persone che erano presenti all'ospedale psichiatrico già da precedenza perché malate di disturbi psichici, ma anche persone che si erano rifugiate lì pensando fosse un posto protetto. E la cosa agghiacciante è la burocrazia che registra per ogni malato nella sua cartella la dimissione avvenuta per mano militare da parte delle formazioni dell'SS, con la dimissione tutti alla data del 28 marzo 44. Nella conferenza si fa il punto sul tradimento del patto etico della cura. C'è stato qualche medico che ha cercato di opporsi? Sappiamo di proteste ufficiali, ad esempio da parte del primario dell'ospedale psichiatrico, che protestò proprio per quanto successo quel giorno, ma sappiamo anche di casi di dirigenti medici, presidenti di fondazione, che invece applicarono con zelo quelle che erano le richieste di avere la distinta di tutti i ricoverati di quella che era definita la razza ebraica all'epoca. È stato pubblicato sulla rivista scientifica americana Nature uno studio guidato dagli astrofisici dell'Università di Trieste. Una scoperta straordinaria che permette di sapere come sono nati gli ammassi di migliaia di galassie all'inizio della vita dell'universo. Sembra un videogioco e invece è l'incredibile viaggio nel tempo 11 miliardi di anni fa e nello spazio, operato da un team internazionale di astronomi guidati dai ricercatori dell'Università di Trieste. Grazie al telescopio ALMA, che si trova in Cile, possiamo osservare per la prima volta che cosa è successo nei momenti della nascita di un ammasso di galassie spiderweb, così chiamate perché ricordano un gigantesco ragno cosmico intento a divorare galassie più piccole. A capo della scoperta c'è l'astrofisico dell'Università di Trieste Luca Di Mascolo, in questi giorni all'Università di Amburgo invitato dai colleghi proprio per illustrare la scoperta. Sono degli oggetti che hanno al proprio interno anche migliaia di galassie, quindi sono, nello specifico sono gli oggetti più grandi che osserviamo nell'universo, che sono tenuti insieme dalla loro gravità. Una grande soddisfazione perché in realtà è stata la conclusione di un lavoro comunque durato 2 anni, basato su una collaborazione in realtà molto intensa, sia fra ricercatori ovviamente a Trieste, ma anche a livello internazionale. Puoi andare fisicamente in Cile dove si trova questo grande telescopio? Direi purtroppo no, non siamo stati in Cile, tutto quanto in realtà è gestito in remoto. Punto veramente di arrivo importante, perché è stata l'osservazione di questo gas più lontana mai ottenuta. Però spero che non sarà l'ultimo. Ovviamente in realtà per andare avanti dobbiamo osservare sempre di più ammassi di questo tipo e protoammassi di questo tipo. È importante perché ovviamente un oggetto ci permette di capire come fare questa osservazione. Avere più oggetti è importante per andare avanti poi nella comprensione dell'universo e dell'evoluzione di queste strutture. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi e domani l'Università di Gorizia ospita un convegno internazionale sull'archeometria, in cui storici e scienziati collaborano alla datazione e all'interpretazione di reperti numismatici che disegnano nuovi scenari sulla storia della regione. Ce ne parla il docente dell'Università di Trieste, Giampiero Adami. L'archeometria è una scienza che letteralmente misura ciò che è antico. Lo fa usando i metodi di indagine spesso non distruttivi, va a studiare i reperti archeologici al fine di ricostruire l'ambiente storico, ma anche di conservare al meglio questi reperti. Ricorre spesso ai chimici, ma anche ai fisici e ai biologi, per ottenere il maggior numero di informazioni fondamentali per gli storici. A questo proposito, a Trieste è stato attivato un laboratorio che è quasi un unicum in Italia. Esattamente, a Trieste abbiamo aperto questa collaborazione molto importante fra chimici e numismatici, per cui abbiamo anche aperto un sito dove andiamo a riportare i nostri risultati e che ha degli aspetti appunto di unicità anche all'interno del territorio nazionale. Tra i sigilli che studiate c'è una bolla imperiale del 1082 dell'imperatore bizantino Alessio I. Perché è così importante e particolare? Questa bolla è molto importante perché intanto è una bolla, un sigillo in oro, a quel tempo se ne facevano più che altro in piombo, questo è un sigillo in oro molto importante perché era collegato a un documento imperiale, un documento di rilevanza storica e per cui anche studiarlo ci fa capire innanzitutto la composizione per esempio e quindi riusciamo anche a capire se è composto di oro o di piombo, ma ci fa anche capire la provenienza di questo oro, quindi ci permette anche uno studio poter dare delle informazioni rilevanti agli storici per ricostruire la storia del nostro territorio e in particolare della discussione sulla sede patriarcale tra Venezia e Grado, che è uno dei punti molto importanti nello studio della storia della nostra regione. Passiamo agli spettacoli. Unica data in regione stasera al Teatro Verdi di Gorizia per il musical da record Forza Venite Gente, incentrato sulla storia di San Francesco d'Assisi. Nella versione del quarantennale, 20 artisti, fra attori, cantanti e ballerini propongono un viaggio musicale composto da 23 scene cantate dedicate al racconto della vita di una delle figure più importanti della cristianità. Alzata di sipario alle 20:45. E debutta il Bobbio di Trieste, il dramma alla madre, col quale il geniale drammaturgo Zeller indaga il tema dell'amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. La protagonista è Lunetta Savino, il sipario si alza alle 20:30, repliche fino a domenica. Passiamo allo sport, iniziando dalla pallanuoto. Sconfitta casalinga per la Pallanuoto Trieste nella nona giornata di ritorno del campionato di Serie 1 maschile. Alla Bruno Bianchi il Telimar Palermo è passato per 8-9 e ipotecato così la qualificazione alle semifinali scudetto. Ora la squadra si ritrova a meno 7 dal quarto posto, una distanza quasi incolmabile con ancora 4 turni rimanenti di regular season. Sci di fondo, i campionati italiani di Dobbiaco in Alto Adige, grande prestazione di Martina Di Centa che si aggiudica il titolo di campionessa nella prova individuale di 10 km in tecnica libera. Per gli uomini il primo posto del valdostano Francesco De Fabiani. Il servizio è di Franco Bragagna di Rai Sport. Francesco De Fabiani, titolo italiano di sci di fondo per l'alpino valdostano di Gressonei. 10 km a tecnica libera a Dobbiaco e titolo, anche stessa distanza, per Martina Di Centa, figlia di Giorgio, Manuela e sua zia, tutti e due ori olimpici. È il mio primo campionato italiano assoluto e per me era importante, ecco, provarci. Fino a domenica in Alto Adige, campionati italiani assoluti. Era atteso derby valdostano, ma Federico Pellegrini un po' stanco e quarto a un secondo dal podio. Cerco sempre di far finta che la fatica non esista, ma poi quando ti trovi in gara al gancio devi fare i conti anche con quella. Secondo Elia Barpa, 20 anni, la grande speranza, il bellunese. Terzo il friulano Giuseppe Montello. Per Martina Di Centa, carabiniera, friulana di Paluzza, un secondo e 6 di vantaggio su Stefania Corradini, fiemmese di Castello, club sotto zero. Siamo alla nostra rassegna stampa. Nella prima pagina del Piccolo di Trieste, la cronaca giudiziaria con la condanna in appello dei due conducenti per lo scontro fra tram. La sentenza 6 mesi a Schivi, 8 a Zetto, che era stato assolto in primo grado, le difese pronti al ricorso in Cassazione. In prima anche la notizia del treno ibrido e l'avvio dello sgombero da parte dell'ex gestore di Porto Piccolo. Una grande fotonotizia dedicata alla fiction su Margherita Hack, che sarà interpretata da Cristiana Capotondi. Margherita delle Stelle, la RAI gira il primo biopic sulla giovane Hack. Fra Trieste e la Toscana, le riprese dello sceneggiato che ripercorre gli esordi dell'astrofisica. Nella cronaca di Trieste, It's Academy apre le porte alla città. Creazioni, storie e corsi dal 18 aprile, visite guidate nella sede per spiegare le opere dei finalisti. Il fascicolo isontino del Piccolo apre con Palazzo Alvarez, che diventa la scuola dei restauratori, corsa contro il tempo per inaugurarla prima del 2025, corso regionale equiparato a una laurea magistrale. In prima anche i lavori previsti nella Galleria Bombi di Gorizia, saranno rinforzati soffitti e accessi. Il giornale torna anche sulla vicenda del Ramadan a scuola, tutela dei bambini e dialogo importanti, è il titolo del richiamo in prima pagina dell'apertura del fascicolo di Monfalcone, che dedica la vicenda a tutta la pagina. Il sindaco, la salute prima di tutto, la CGIL, invasione di campo, il parroco, parlare con le famiglie musulmane, la nutrizionista, attenzione al digiuno. Il Messaggero Veneto di Udine apre sulle 581 richieste di reddito di cittadinanza in regione rispetto alle oltre 11.000 dello scorso anno. La fotonotizia che per l'edizione di Udine è apertura, scusate, per l'edizione di Pordenone è apertura, è per gli incidenti sul lavoro. Entrambe le edizioni condividono poi l'elezione di Zamò e l'ingresso di una società del gruppo Danieli nella commessa da 370 milioni di euro per l'elettrodotto sottomarino che collegherà Sicilia, Sardegna e Campania. Capocronaca nell'edizione di Udine, i cantieri per la ricostruzione del canale principale che hanno prosciugato la portata d'acqua di ritorno da martedì. Da Reana del Royale, la chiusura di un negozio di bricolage che ora mette a rischio il lavoro dei 20 dipendenti, per i quali si prospetta ora una ricollocazione in altri negozi della stessa catena. L'edizione di Pordenone del Messaggero per la cronaca dà conto della sperimentazione di 3 linee di pedibus alla scuola primaria Collodi e poi informa sui primi rientri a casa degli abitanti di Largo Cervignano dopo il rogo dell'altro giorno in un sottoscala utilizzato come deposito materiali. Il Gazzettino di Udine apre sulle infrastrutture e parla del treno blues e dei progetti per i collegamenti regionali. In tema un altro servizio sulle gare d'appalto delle amministrazioni che si concludono senza offerte e rischiano di vanificare i progetti del PNRR. Fotonotizia per le cementine, mattonelle decorate ora protagoniste di un progetto Interreg Italia-Slovenia che coinvolge una coop sociale. Spazio poi a un servizio sul metaverso, l'habitat virtuale ispirato a Palmanova, allestito dal gestore dei rifiuti NET per insegnare la raccolta differenziata ai più giovani. L'edizione di Pordenone apre con la morte a Maniago sul lavoro e sostituisce la fotonotizia con una vignetta dedicata ai lavori del policlinico che non prevedono parcheggi commisurati alla grandezza della struttura. Dall'interno il protrarsi dei lavori della RSA negli ambienti di Casa Serena per problemi con le aziende responsabili del cantiere. Slitta quindi la riapertura del presidio sanitario per cure intermedie. Torniamo ora agli appuntamenti della giornata. In occasione della giornata mondiale dell'autismo in calendario domenica 2 aprile, già oggi a Morsano al Tagliamento si organizza la Marcia in Blu, l'iniziativa podistica che prevede di marciare indossando qualcosa di blu, colore simbolo dell'autismo, per sensibilizzare alla vicinanza verso chi vive questa condizione. La partenza è prevista davanti alla alla palestra di Morsano alle 18.30. E un'altra marcia blu di oggi è quella organizzata dallo Zanussi di Pordenone, che vedrà la partecipazione di circa 125 persone tra studenti e insegnanti, con ritrovo alle 9. Per l'occasione, fino al termine della manifestazione alle 11, sarà istituita la sospensione della circolazione lungo il percorso del corteo in via Molinari, via Montereale, largo San Giovanni, corso Garibaldi, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele. L'appuntamento odierno della quarta edizione della rassegna di medicina Monfalcone in salute sarà dedicato alle malattie cardiovascolari della donna. Interverrà Gianfranco Sinagra, direttore della struttura complessa cardiologia di Trieste e dipartimento attività integrata cardiotoracovascolari di Asugi, insieme a Gerardina Lardieri, direttore della struttura complessa di cardiologia di Gorizia Monfalcone. Appuntamento a Monfalcone, la biblioteca comunale in via Ceriani alle 18. Anteprima nazionale nella seconda giornata di Pordenone Docs Fest è la proiezione di White Balls on Walls, opera incentrata sul dietro le quinte del museo Stedelijk di Amsterdam, portatore di una nuova prospettiva sulla storia dell'arte. L'appuntamento è a Cinema Zero alle 17. In programma anche la proiezione di Ulderica Frutte di Mont sulla storia della fotografa Ulderica da Pozzo, che da 40 anni ritrae la Carnia e il Friuli, alle 20.45. Prende spunto dal breve film di Pierpaolo Pasolini intitolato Che cosa sono le nuvole? La rassegna La città ideale, che propone riflessioni mediante l'osservazione del passato e la condivisione del presente per un possibile futuro che abbraccia nuovi mondi concreti, ma anche visionari. Oggi il primo appuntamento con la mostra intitolata Oltre le nuvole, abbinata alla conferenza di Sergio Monai, astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che introdurrà i temi affrontati nelle immagini in esposizione dedicate all'aspetto più poetico e visionario della scienza. Appuntamento a Trieste al Civico Museo Sartorio alle 11. Salamandre si fece conoscere come il parruccaio più ricercato e anticonformista di una Parigi con una morbosa passione per la più celebre delle sovrane, Maria Antonietta. L'autore de Il parruccaio di Maria Antonietta, Alberto Frappa Ronceroy, dialoga con Adriana Roncovillotta a Udine nella sede dell'Università della Terza Età alle 17. Giungerà oggi a Palmanova la decima edizione di Una vita da social, campagna educativa itinerante della Polizia di Stato, dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei pericoli della rete per i minori e al fenomeno del cyberbullismo. Parteciperanno il questore di Udine, Alfredo D'Agostino, il prefetto Massimo Marchesiello e rappresentanti dell'Udinese Calcio. Quest'anno l'iniziativa ha come tema In strada come in rete, prevede anche la presenza di operatori della polizia stradale per momenti formativi in materia di sicurezza ed educazione stradale. Appuntamento a Palmanova in Piazza Grande dalle 9 alle 12.30. Settimo appuntamento per il ciclo Letture d'arte per bambini, che proporrà un albo illustrato ispirato alla pittura dell'artista olandese Vincent van Gogh in occasione del suo 170° compleanno. Le letture saranno abbinate a informazioni storico-artistiche e termineranno con la produzione di un disegno ispirato ai libri letti. L'appuntamento è a Trieste, alla Biblioteca d'Arte Molesi del Museo Revoltella, alle 17. Il Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale informa che a causa dei lavori di manutenzione straordinaria al pozzo di Lauzacco, Oggi e domani dalle 8.30 a Santa Maria la Longa, ad eccezione della frazione di Meretto di Capitolo, si verificherà un abbassamento della pressione nella rete di distribuzione idrica e momentanee interruzioni al servizio. Il numero verde per le emergenze e i guasti, attivo 24 ore su 24, è l'800-903-939. Prima di chiudere vi ricordiamo che Radio Rai per i Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vueo Fevelindi. Alle 11.19 circa l'appuntamento con Anziani, anzi no. Non sentire bene non è solamente un problema di udito ma coinvolge tutta la sfera emotiva della persona. Autismo e siccità sono alcuni dei temi di Né Stato né Mercato che va in onda alle 11.55. Ed è tutto da Maria Spezia e Francesca Vigori con l'assistenza tecnica di Paolo Cossano e Laura Sarasini in redazione. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.